Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati si parla di luoghi che fanno stare bene, di geografia degli oggetti che si mescola alla geografia dell'anima, di taumaturgico effetto che solo alcuni posti riescono ad avere, a volte anche inspiegabilmente. Audrey Hepburn visita Tiffany per sentirsi meglio, nella celebre pellicola del 1961 di Blake Edwards. I giovani italiani, a partire dal 1967, visitano un negozio milanese che con Tiffany condivide, in un certo senso, il potere terapeutico. Siamo a Milano, negli anni 60. Mentre Miss Holly Golightly, oltreoceano, cerca conforto per le sue giornate no da Tiffany con un cornetto e un caffè guardando le vetrine, nel capoluogo lombardo un giovane che lavora nel negozio di scarpe del padre sente che c'è bisogno di offrire qualcosa di diverso alle signore che guardano le sue vetrine, forse in cerca di quello stesso conforto dell'eroina di Truman Capote. Questo giovane si chiama Elio Fiorucci. Elio Fiorucci. Cioè, i miei avevano questi negozi di scarpe e pantofole. Uno di questi negozi era in via Torino, un negozio abbastanza grande, e quando sono arrivato io, obbligato ad arrivarci perché andando bene a scuola dovevo occuparmi qualcosa, avevo subito pensato: ma qui bisogna rinnovare le cose. E così Elio decide di proporre alle sue clienti degli stivali da pioggia colorati. La pioggia è già triste di per sé, pensa. Perché non mettere del colore alle giornate grigie invece del classico nero? Forte della sua intuizione, propone la cosa a una redattrice di Amica, che pubblica alcune foto delle galosce multicolor. Ed è subito successo. L'Italia sembra pronta a osare, come si sta già facendo nel resto del mondo. L'Italia in bianco e nero, ancora in cerca di un'identità nazionale, dove sembra che al nord il rigore e i toni pacati siano sinonimo di industriosità e ricchezza, mentre il colore e la passione vengono lasciate al ricordo nostalgico degli emigranti del sud. Per Elio, la scoperta di un nuovo significato del colore e anche di una nuova Italia è solo l'inizio di una trasformazione che troverà nell'incontro con una stilista polacca la sua giusta collocazione. Eppure ogni scelta fatta da Elio, a partire da quegli stivali di gomma colorata, sembra parlare del suo destino che non poteva essere diverso. Quel destino che lo porta ad incrociarsi con molti grandi protagonisti degli ultimi decenni del millennio. Io credo fortemente nel destino, tanto da non credere al libero arbitrio. Gli antichi greci dicevano che il nostro destino è scritto dentro il nostro carattere. Per cui, siccome noi siamo il nostro carattere, non c'è altra possibilità che noi faremo quello che siamo destinati a fare. E così sarà. Il suo destino è già scritto. Si tratta solo di decifrarlo. Il negozio del padre, infatti, è solo l'opportunità per sperimentare la forza di un luogo dove avviene l'incontro con il mondo. La sua esperienza attraverso i viaggi, la curiosità e lo scambio con altri talenti porterà Elio ad immaginare una nuova concezione di negozio, inteso come spazio di condivisione e di inclusione. Necessità dettata anche dal periodo storico, sovvertendo la logica degli atelier, luoghi fino ad allora considerati esclusivi. Cioè, io devo tutto ai miei, nel senso che mi hanno lasciato questi negozi e io, attraverso il negozio, ho risolto la mia vita, non la vita economica, la vita, la crescita della mia persona. Il negozio è un luogo magico, luogo veramente dell'incontro dell'altro. Sono i primi anni 60. Il boom economico porta a un benessere diffuso e nascono così nuovi bisogni. Nuovi bisogni portano inevitabilmente a nuovi prodotti che li possono soddisfare, favorendo nuove e interessanti prospettive economiche per l'industria dei consumi. Nasce il lusso popolare. La moda non è più solo di pochi, anche le classi medie vi hanno accesso e cercano nel vestito una identità. In Italia c'è un po' di resistenza ad accogliere tanta innovazione. Non ho l'età. Non ho l'età per amarti. Mentre Gigliola Cinquetti vince il Festival di Sanremo con Non ho l'età, nel 1964 in America già da 4 anni si commercializza la pillola anticoncezionale. in Italia arriverà solo nel 1965 e in Inghilterra, nella Swing in London, i Beatles si esibiscono dinanzi alla regina madre, provocando il pubblico con questa richiesta: chi è seduto nelle poltrone più economiche potrebbe per favore applaudire e gli altri potrebbero gentilmente fare un po' di rumore con i gioielli? Le regole stanno cambiando, anzi sono già sovvertite, almeno fuori dal bel paese. L'Italia sta aspettando il suo sovvertitore. A me piace l'Inghilterra perché è il massimo del conservatorismo, però è anche il massimo della libertà e della trasgressione. E l'Inghilterra è una delle mete preferite da Elio fin da subito. Prende la scusa di far visita alla sorella che studia a Cambridge, lui che non ha voluto studiare ed è stato messo a lavorare col padre, e prenota un biglietto per Londra. Da poco inaugurato il primo volo di linea da Linate, Elio, con la curiosità che lo contraddistingue, arriva nella capitale inglese. Non conosce molto bene la lingua, eppure si avventura dall'aeroporto sino al centro. Prende la metro, un mezzo che a Milano in quegli anni comincia a fare le prime corse, mentre qui è già attiva da più di mezzo secolo, e arriva per caso, anche se al caso lui non crede, a Carnaby Street. I colori, le vetrine dei negozi, le persone che si incontrano per strada, tutto gli fa credere di essere nel bel mezzo del suo destino. Quella strada pulsa di vita, la vita che tutti dovrebbero conoscere. E intanto la sua mente comincia a elaborare. Quando chiunque sbarcasse a Londra in quel periodo, almeno io facevo così, ma sentivo tanti miei amici, tanta gente che veniva da tutto il mondo, lasciavi di corsa la valigia in albergo per scendere subito e correre a vedere cosa c'era di nuovo. Sarà nel primo di questi viaggi che incontrerà la persona che gli farà avere l'illuminazione sul suo nuovo concetto di negozio, dove selezionare la merce secondo un criterio orizzontale e non più verticale, più conforme alla nuova idea sociale. Un'idea di libertà rappresentata dal disordine, dall'ibridazione, dalla contaminazione, contro le regole del perbenismo che di lì a poco sarebbe entrato in crisi con la contestazione. Gli studenti continuano a contestare. Qui siamo a Milano, ma potrebbe essere un'altra qualunque città d'Italia o d'Europa. La contestazione giovanile è una delle caratteristiche di questi tempi e l'età dei contestatori continua a scendere. Prima erano gli universitari, adesso sono addirittura gli scolari delle medie che occupano alberghi per trasformarli in casa dello studente, li installano in loro quartier generale con tanto di manifesti e giornali murali. Sono anni in cui la politica è ovunque, schierarsi è quasi d'obbligo. Eppure Elio decide di essere estraneo a tutto questo. Lui è la libertà senza colorazione ideologica di sorta, come scrive Natalia Aspesi. Fiorucci rappresenta la vampata di giovinezza senza la politica, dell'anticonformismo senza lo spinello, della lotta al sistema senza lo scontro fisico, della fantasia senza la necessità di mandarla al potere. La possibilità di far vedere anche all'Italia quanta libertà vi fosse nel mondo, libertà di esprimersi, di vestire, di sentire, arriva nel maggio del 1967, l'anno prima del maggio francese, proprio a Milano e proprio nel luogo più tradizionale della città, Piazza San Babila. Perché noi apriamo il negozio una sera della fine maggio del 67, così invitando un sacco di gente, mettendo la musica ad alto volume, perché io portavo la musica, dopo i miei viaggi a Londra portavo la musica inglese e avevamo messo un impianto da discoteca nel negozio. Allora arriva a un certo punto Adriano Celentano con tutto il suo clan, perché aveva questa Cadillac, e allora scendono, poi come in un film saltano dalla macchina tutti quanti, entrano nel negozio e la gente ha bloccato tutta la circolazione, perché sembrava che stessero girando un film. Figurati in San Babila, che era il luogo dove i negozi tutti conservativi, si chiamavano Duca d'Este, Principe di Galles, con tutti questi nomi roboanti. Il 31 maggio del 1967 si inaugura quindi il primo negozio Fiorucci in Galleria Passarella, in mezzo ai Principe di Galles e ai colori tradizionali. Elio irrompe con la sua colata di colore ed emozione. Camilla Cederna, sulle pagine dell'Espresso, ne parla l'indomani. Il più grande, il più pazzo, il più stravagante negozio, tutto bianco opaco e lucido blu fiordaliso. È l'inizio di un nuovo sentire. Fiorucci mette in vetrina tutto ciò che succede nel mondo, quasi una profetica visione del villaggio globale. L'inaugurazione è un party sulla strada, contrariamente ai cocktail tradizionali, perché è la strada il vero teatro della vita che batte, è là fuori che si capisce cosa abbiamo dentro, cosa ci muove. Ma da dove arrivava tutta questa energia? certamente dal suo carattere, da quella apertura verso l'altro e il diverso che ha dentro fin da bambino. Contribuisce, come già detto, anche il periodo storico dove emerge il bisogno di una generazione che reclama la propria identità rispetto al mondo della tradizione. E quella rabbia mista ad eccitazione per essere giovani si trova soprattutto nella capitale inglese, dove avviene l'incontro che darà una nuova direzione all'energia di Elio e dove impazzano gli Who di My Generation, una sorta di inno generazionale. A Londra avviene il primo di tanti incontri che costelleranno poi l'esistenza di Fiorucci. Il Big Bang, da cui deriva il suo universo, che si cristallizza nel primo negozio in San Babila, l'ha avviato lei, Biba, ovvero Barbara Ulanici. Barbara Ulanici. Cioè, noi fratelli siamo cinque. Quattro fratelli bravissimi a scuola. Io, l'unico che non ero bravo a scuola, sono stato destinato subito ad andare in negozio da mio padre. Mia sorella, invece, che era studiosa, era partita e è andata a Cambridge. Però a me mi intrigava questa idea di non essere mai stato a Londra e di non conoscere Londra. Allora, un giorno decisi di partire. Arrivai a Londra, lei era a Cambridge, incominciai a girare, non so se sono stato fortunato, però ho visto subito Carnaby Street e ho incontrato subito Biba, e allora ho detto, ho chiamato mia sorella a Cambridge, ho detto, senti, fai una cosa, vieni qua tu, perché mi sembra che qui ci siano delle cose. È il 1965 e a Londra Biba è quanto di più innovativo si trovi in Carnaby Street. Quell'incontro segna l'inizio per Elio di una nuova visione della moda, ma soprattutto del negozio. Niente sarà più come prima. Sente che si deve usare un po' di più anche in Italia. Quelle prime sperimentazioni fatte con i colori all'interno del negozio del padre trovano nella boutique di Biba una collocazione più precisa. Quello è il nuovo modo di fare moda, trasformare in icone pop i segni culturali sparsi nella metropoli. Istituzionalizzare il lifestyle. A Londra Biba veste Katie McGowan, idolo dei teenager, conduttrice del programma televisivo di musica rock più famoso, Ready, Steady, Go. In Italia negli stessi anni c'è Canzonissima. Difficile pensare alle sorelle Kessler vestite da Fiorucci. Difficile. In Italia manca il coraggio che c'è oltre Manica, ma Elio ci vuole provare. Biba insegna che si può e si deve fare per combattere la noia, per combattere le convenzioni. L'Italia di quegli anni è quella in cui la pop art compare alla 32esima Biennale di Venezia e il patriarca Giovanni Urbani proibisce a tutte le donne di visitare la mostra perché piena di cose sporche e perverse. Allo stesso modo, il presidente della Repubblica, Antonio Segni, trova una scusa per non venire a inaugurarla. Questo è il clima nel quale Elio deve muoversi, cercando di portare una nuova moda più vicina al suo modo di sentire, che ai dettami del momento, e che con la pop art ha un legame strettissimo. Lo fa lo stesso, distinguendosi per luce e colore. Quello che vende Fiorucci è qualcosa che già esiste, ma è solo più colorato e fatto di storia, di viaggi, di citazioni. Più che un negozio, perché i negozi lì erano tutti di boiserie, tutti come vecchie case nobiliari inglesi, e invece era tutto di metallo. Il successo è stato anche quello di andare ad aprirlo in San Babila e aprirlo grande, non aprire una boutique. Era un negozio che incominciava già ad essere un negozio grande in San Babila. Londra è il faro d'orientamento fino ad allora. Con l'apertura del primo negozio Fiorucci basta passare in Galleria Passarella per vedere quali sono le novità nel mondo, senza uscire dal paese. Ci pensa Elio a riunire il meglio in quei tre piani di luccicante innovazione in San Babila, dove commesse che sembrano modelle salgono e scendono in minigonna dalla scala color ciclamino posta nel mezzo. Queste ragazze che salivano sulla scala in minigonna, devo dire che sono state per anni l'attrazione di Milano, perché tutti i miei amici mi confessano adesso, o perché andavano a scuola o perché andavano in ufficio, che lo passare di lì era diventato obbligatorio. Galleria Passarella era sempre affollata. La possibilità di un futuro più libero è sbarcata anche in Italia, anche se il bel paese rimane per certi versi un po' restio a farsi contaminare fino in fondo. Proprio quello stesso maggio del 1967 a Milano, una ragazza viene rimandata a casa per cambiarsi, senza sostenere l'esame di guida, perché l'ispettorato alla motorizzazione trova indecente la gonna troppo corta. La rivoluzione dei consumi sta però per dare una sterzata anche in Italia. Un'indagine DOCSA, riportata da Panorama in quel periodo, stabilisce che i ragazzi tra i 13 e i 19 anni, che sono circa 20 milioni, spendono 1,5 miliardi di lire al giorno per divertimenti e consumi voluttuari, come dischi, bibite, abbigliamento. Il guardaroba degli adolescenti diventa quindi di interesse nazionale, poiché dai capricci dei giovani consumatori dipende il fatturato di grandi industrie. L'interesse per i giovani e il loro guardaroba è fatto anche d'altro per Elio. Lì era veramente la gioia, la musica, l'allegria, il sorriso, per poi questa gente che lavorava nel negozio, io la sceglievo che fosse allegra, dicevo: guardate, dovete sempre sorridere, perché il sorriso è la cosa che ti fa stare meglio di tutti, anche quelli che non comprano. Magari vengono per simpatia, dovete sorridere ancora di più, cioè non è che dovete sorridere solo a quelli che comprano, bisogna sorridere a quelli che arrivano. Quello che Fiorucci ha l'ardire di fare è di creare un dialogo su un piano emotivo con i suoi clienti. L'acquisto è la conseguenza della gioia ricevuta e il modo che le persone hanno di ripagarlo per averle fatte star bene. Il suo è un negozio terapeutico, come Tiffany per Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany. Lui sa che è solo nella condivisione che si può essere felici, come gli ha insegnato la Londra di Biba e come cantano i Turtles in quegli anni. Imagine me and you. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati è il 31 maggio del 1967. A Milano viene inaugurato il primo store Fiorucci in Galleria Passarella. All'opening partecipa anche Adriano Celentano. È una vetrina sul mondo, vi si trova il meglio della moda. Grande novità per Milano e per l'Italia di quegli anni. L'idea di un negozio come quello arriva dall'incontro con una stilista di origini polacche incontrata nei viaggi a Londra, Barbara Ulanici. Vabbè, sì, è molto più importante di Mary Quant, perché Mary Quant, è vero, ha fatto la minigonna e poi però è stata una boutique, diciamo, normale, una persona, lei, normale nel senso della creatività, mentre Barbara Ulanici è stata una grande inventrice di immagini. E niente, lei si è inventata questo luogo magico dove poi si incontravano tutti. Tu lì potevi incontrare i Beatles, incontrare Brigitte Bardot. Il negozio di Barbara Ulanici si chiama Biba e nella Londra degli anni 60-70, per ogni giovane ragazza inglese, Biba è sinonimo di stile, di swing in London. Elio, appena arrivato nella capitale inglese, non può non rimanere folgorato da questo nuovo concetto di shopping. Il negozio come luogo dell'incontro, dello scambio. Il negozio come un'esperienza sensoriale. La storia di Biba è piuttosto curiosa. Anche per lei il periodo storico e la storia personale hanno creato la giusta miscela per dare concretezza alle sue idee. Figlia di un diplomatico polacco, si trasferisce a Gerusalemme con la famiglia, che è costretta a ritirarsi in Inghilterra con lo scoppio della guerra. Una volta qui, Barbara chiede al padre di poter seguire una scuola d'arte, lei che è appassionata di disegno. Nei primi anni 60 lavora come illustratrice di moda per Vogue e il Times. Poi, con l'aiuto del marito, inizia l'avventura di una vendita d'abiti per corrispondenza. La moda non esisteva allora, non c'era niente da mettersi. Per le ragazze come me di 16, 17, 18 anni, andare nei mercatini a comprarsi qualcosa da mettersi era una disperazione. All'epoca lavoravo come illustratrice per alcune riviste. Disegnavo in continuazione e così un giorno mi chiedono se voglio disegnare una linea da vendere per corrispondenza, da pubblicizzare con un redazionale sulla rivista. L'articolo esce prima di quanto ci immaginiamo e gli dedicano un terzo della pagina. Avevamo messo l'indirizzo di un ufficio per fare gli ordini. Ricordo quando siamo andati per vedere se era arrivata posta. Eravamo seduti in macchina e appena giriamo l'angolo vediamo il postino con due sacchi zeppi di lettere e noi con un sorriso enorme ci avviciniamo. Lui dice: no, no, ce ne sono ancora. Comincia così, quasi per caso, la fortuna di Biba, che non dimentica quando la madre, durante la guerra, faceva per lei e la sorella abiti con orribili stoffe di recupero. A 14 anni Barbara ha già un suo stile. Le piace mescolare la tradizione con le novità. Usa i completi in modo spaiato. Si affeziona a certi colori, alle sue icone, tra queste l'elegante Audrey Hepburn e la sensuale Brigitte Bardot. Ed è proprio ispirandosi a un completo a quadretti, indossato dall'attrice francese a Saint-Tropez, che disegna il modello da vendere per corrispondenza. Da questo successo inaspettato, nel 1964 nasce il primo store in una stradina di Kensington. Molte donne si ricordano ancora oggi l'importanza di quelle vetrine. Era incredibilmente glamour. Il negozio di Biba ogni giorno attirava tanta di quella gente, più visitatori che a Buckingham Palace. Il Sunday Times lo definisce il più bel negozio al mondo, un mix di eleganze, raffinatezza e libertà. La tradizione si reinventa e nasce uno stile assolutamente nuovo. Lo stile Biba era lontano dalla massa. Mentre tutti ancora copiavano la minigonna di Mary Quant, lei proponeva abiti anni 20 e scialli edoardiani. In un periodo dominato da tessuti sintetici e motivi geometrici in colori squillanti, preferiva velluti e satin neri, seppia, prugna, rosa cipria. Biba non è shopping, è un'esperienza. Le sue creazioni sono indossate da personaggi icona. A Julie Christie allestisce l'intero guardaroba per il film Darling, che valse alla Christie un Oscar. Tutti ci entrano almeno una volta, anche i grandi nomi della musica e del momento, Mick Jagger, Elton John, Sonny and Cher. Tutti vogliono vedere cosa c'è di nuovo. Biba è la prima marca cheap and chic. Non solo look, quindi, ma anche un vero e proprio stile di vita, visto che i prezzi dell'emporio non erano poi molto diversi da quelli del primo catalogo postale. Art Nouveau e Déco per i suoi stampati, corredati con zeppe, vite alte e colori un po' dark in stile mod, per poi passare a uno stile hippie chic degli anni 70. Le novità arrivano ogni 3 settimane. La moda si consuma in fretta. È il momento del ready made. Tutto intorno a noi sta cambiando. L'Inghilterra esce da 30 anni di depressione e Londra vive il suo momento swinging. La gente sta meglio economicamente e vuole stare meglio anche emotivamente. Era la Londra di quegli anni, gli anni 65. Voi potete immaginare cos'era Londra negli anni 65, i Beatles, tutti gli altri gruppi musicali, cioè incontravi per strada questi personaggi, li guardavi con l'occhio tondo, come dico io, con l'occhio sbarrato, perché erano fantastici, erano belli da vedere, erano interessanti, erano nuovi. Biba è il luogo in cui stare bene diventa facile non solo per la merce in vendita, che ha linee e colori originali, ma anche per l'accoglienza, per le persone che lo frequentano, per il nuovo concetto di negozio. Da Biba si va per incontrarsi. La cosa che mi ispirava di più era vedere la gente che entrava nel negozio e vedere cosa facevano con gli abiti. Abbiamo cominciato Biba in un momento in cui era difficile fare shopping. Avevi dei soldi in mano, ma non sapevi come spenderli. Non c'era niente da comprare. Quello di Biba, grazie anche ai prezzi che restavano abbordabili, diventa un nome sempre più famoso e Laura Nici deve spostarsi in negozi sempre più grandi. All'inizio degli anni 70 l'occasione dei suoi sogni arriva. Il grande magazzino Derry & Toms, gioiello Art Deco, cessa l'attività e l'immobile che lo ospita si rende disponibile. È uno spazio immenso, 6 piani, il mobilio è quello originale. Sarebbe insensato metterci una boutique, è troppo grande e fuori da ogni logica commerciale. Ma Barbara è innamorata di quel posto e decide di trasformarlo nel negozio dei suoi sogni. Nel 1973 apre i battenti e Vogue lo descrive così. Un palazzo di marmo color albicocca e delle pareti leopardo. 6 piani di pura fantasia anni 30. L'atmosfera è quella di un immenso boudoir, con tocchi di esotismo da film muto. Un'operazione di interior design assolutamente nuova. Era completamente disegnato il negozio da lei. E disegnato nel senso proprio dell'interno, no? Interior design, cioè la parte tutta degli arredi. Lei disegnava tutto. Biba si distingue quindi anche per l'arredamento e l'architettura del negozio, non solo per gli abiti esposti. L'accoglienza parte dall'estetica del luogo. Questo è uno spunto che Elio non può farsi scappare. Così anche lui collabora con un'amica scultrice, Amalia Dal Ponte, per disegnare il primo negozio in San Babila, sino ad arrivare alle collaborazioni con noti architetti del calibro di Ettore Sozzas per i negozi americani. Il negozio deve riunire il meglio, sia come contenuto che come contenitore. E ci vuole di più. Deve essere uno spazio multisensoriale. Nello store su 6 piani di Biba c'è infatti anche un bar, la Rainbow Room, dove oltre a bere elaboratissimi cocktail, si può assistere a un'eclettica programmazione di concerti, dal retro kitsch al rock più crudo. Nel 1974, quando Fiorucci inaugura il suo secondo negozio a Milano, in via Torino, tra fontane d'acqua, profumi speziati, dove c'è uno spazio per le performance e un ristorante dove serve hamburger in piatti di Richard Ginori, non può non pensare a Biba e ai suoi aironi rosa nel laghetto ricreato all'ultimo piano in Kensington Road. La creativa polacca incide in modo profondo nelle scelte creative dello stilista italiano. Io poi ho aperto un negozio a Londra, in King's Road. Allora io le dissi, guarda Barbara, io verrò a Londra con un gruppo di amici, porto un po' di giornaliste, porto un po' di amici, così. Mi ha detto, sai cosa faccio? Io organizzo un party per voi a casa mia. Ho detto, ma no, non è possibile così, guarda che siamo in tante. No, non preoccupatevi, a me gli italiani piacciono, mi piace parlare con la gente. E il giorno dell'inaugurazione del negozio andiamo tutti a casa sua con champagne. È il 1975. Per Fiorucci parte la conquista del mercato anglosassone, da cui ha preso ispirazione, e si inaugura la sua stagione londinese proprio a casa della persona che gli ha dato lo stimolo ad aprire in San Babila. Come dice Elio, è stata una grande scuola di generosità. Di lì a qualche mese Biba è costretta a chiudere. La sua idea non è più supportabile economicamente. È finita la sua era, che in poco tempo ha segnato la storia. Una specie di passaggio del testimone. E pensare che solo 2 anni prima, all'inaugurazione del 14 novembre del 73, alla Rainbow Room, la sala concerti all'ultimo piano del negozio in Kensington Road, suonavano i New York Dolls. Un concerto memorabile, anche per come finisce, con i componenti del gruppo pizzicati dagli uomini della sicurezza mentre cercano di rubare dei boa di struzzo. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. Destini incrociati. È la fine degli anni 60. Con il primo store in San Babila, Elio Fiorucci inaugura una nuova moda. L'idea di un negozio dove fare esperienze, e non solo shopping, viene dall'incontro con una protagonista della swing in London, Barbara Ulanici. Quando Fiorucci approda oltremanica con un suo negozio nel 1975, Biba, il negozio in Kensington Road di Barbara, chiude, fatto fallire da una City distratta e diffidente. Cosa che fortunatamente non avviene in Italia, dove lo stilista italiano è proiettato alla conquista del mondo. Lei era abilissima nel disegno, ma non erano lei e il marito abbastanza bravi nella gestione. E per fare questo grande magazzino su 6-7 piani, perché è grande come la Rinascente, io credo che dovettero mettersi in società o chiedere dei finanziamenti. Biba chiude, ma la sua idea no. Quello stimolo ad andare oltre i dettami del momento, quella libertà che si respirava nei negozi di Barbara, dove lei usciva nuda dai camerini, quella commistione di oggetti e performance per intrattenere i clienti che fanno visita al negozio anche solo per visitarlo, sono ormai nelle corde di Elio. Fiorucci apre in tutto il mondo. Nel 1976, Enzo Biagi sul Corriere della Sera, riferendosi a lui, dice «L'uomo che ha distrutto la moda». La moda, infatti, intesa come ordine precostituito e convenzionale, con Fiorucci cede il passo alla fantasia, all'istinto. Tutti possono esprimere quello che sono, che sentono, senza paura. Essere di moda vuol dire avere proprie idee, essere originali, individuali. Nasce la moda democratica. Le sue vetrine diventano spazio per performance. Si vedono passare gli anni 70, gli anni 80, i 90, dagli hippie ai paninari. Da Fiorucci la moda diventa spettacolo. L'universo compare in una finestra, una sorta di internet ante litteram. Il suo negozio è il luogo comune per eccellenza dell'attualità, del costume, e i giornali ne parlano in continuazione, solo per il fatto che esiste. Non ci sono solo clienti, ma soprattutto visitatori. Fiorucci è un'attrazione. Poi mettiamo le bande in vetrina che suonavano il sabato, lì tutta gente per bene. Però anche lì, nuova fortuna. Passa Secchi, lui si è inventato Panorama. Panorama era l'unico giornale di costume che abbracciasse, potesse parlare di queste cose. Allora chiama Miriam De Cesco, che è la caporedattrice, dice: guarda, ho visto il negozio di Fiorucci, dobbiamo fare assolutamente un articolo perché è una cosa straordinaria. Ma dopo Milano e Londra, l'America lo aspetta. È il 1976, a New York, sulla 59esima strada vicino a Bloomingdale, apre lo store Fiorucci. Il progetto del negozio viene affidato all'amico architetto Ettore Sozzas, che insieme ad Andrea Branzi e Franco Marabelli disegnano questa nuova vetrina sul mondo dove trovare il meglio della creatività in circolazione. Per l'inaugurazione del negozio presenta una collezione fatta interamente con abiti realizzati in un futuribile tessuto carta. I sensi sono tutti coinvolti. Elio prosegue il suo cammino nella multisensorialità e nella sperimentazione. Fedele al suo ruolo di talent scout, mette a disposizione nel negozio uno spazio per giovani artisti. È la New York degli anni 70. Il periodo è certamente favorevole. Fiorucci diventa icona. Io credo, quando dico fortuna, è stato anche il periodo fortunato, nel senso che tu immagina l'America anni 70. Vivace, c'è già la factory di Andy Warhol, però l'Italia non era presente con la moda nasce dopo, il made in Italy della moda. Armani fa la sua prima sfilata nel 75, negli anni 80 effettivamente questi grandi stilisti italiani conquistano l'America. Lo store diventa il punto di incontro delle comunità artistiche newyorkesi. Fiorucci diventa ufficialmente il luogo dove andare. Warhol sceglie lo store sulla 59esima per lanciare la sua rivista Interview. Se voi andate su YouTube adesso e cliccate Andy Warhol, Elio Fiorucci, Truman Capote, New York, vi viene fuori un filmato di 15 minuti dove c'è Andy Warhol che nel negozio Fiorucci, con l'insegna Fiorucci, è lì che firma autografa tutti questi suoi, tutte le copie di Interview che lui stava lanciando. Prosegue l'intuizione di Elio di un negozio come luogo d'incontro, di scambio. La cultura americana lo accoglie e diventa simbolo di stile libero, informale, fantasioso. Le Sister Sledge, nel ritornello di He's the Greatest Dancer, lo citano dicendo: lui veste i migliori designer, Halston, Gucci, Fiorucci. L'inaugurazione del famosissimo Studio 54 nel cuore di Manhattan nel 1977, emblema per eccellenza delle discoteche, è sponsorizzata da Fiorucci. Alla serata partecipa tutto il jet set internazionale. Bianca Jagger, Margot Hemingway, Andy Warhol, Grace Jones. Con Andy Warhol, Elio instaura un'amicizia particolare. Allora ci siamo conosciuti a vedere la sua factory. E io lì sono rimasto veramente impressionato, perché questo suo spazio era, diciamo, una specie di scuola, una specie di laboratorio dove si sperimentava tutto. Io lì ho conosciuto Basquiat, Jean-Michel Basquiat, ho conosciuto Keith Haring, ho conosciuto tutta la nuova generazione dei pittori americani. Nel 1980, con la Rizzoli USA, Fiorucci produce un film sull'allora sconosciuto Jean-Michel Basquiat, dal titolo New York Beat. Un documento indimenticabile sulla vita di questo artista, che all'epoca era fidanzato di un'altrettanto sconosciuta Madonna. Quando io conobbi il personaggio, proprio lì, poi vedevo assieme Madonna e lui, cioè due personaggi magici. Sai quando incontri due persone e dici: ma questi hanno una magia, esprimevano una magia della leggerezza, tutto quello che avresti voluto essere tu, cioè la leggerezza, la bellezza, insomma. E io ho detto subito: facciamo, a questa mia amica, facciamo subito questo film, perché... E abbiamo prodotto il film. Keith Haring nel 1984 ricopre di graffiti su ogni superficie tutto il negozio Fiorucci in San Babila, in una performance solitaria durata una notte. Pareti e mobili diventano un'estemporanea opera d'arte. Quasi come una moderna cattedrale, il negozio in Galleria Passerella ha il suo artista che ne affresca le volte e la gente lo può visitare. Gli incontri fatti nel periodo newyorkese accompagnano Elio per molto tempo. Per festeggiare i 15 anni della Fiorucci, celebrati allo Studio 54, decide di far cantare Madonna. Ma lei, che era un genio, ha fatto venire l'agente di Michael Jackson, che stava a Los Angeles, che lo stava già tampinando: devi sentire, devi ascoltare. Lei ha colto questa occasione e l'ha fatto venire a New York. Lui, anche lui, restò fulminato da Madonna, tant'è vero che l'ha presa sotto la sua ala. È Elio prosegue quindi la sua carriera tra incontri e destini che si incrociano, tra innovazione e provocazione. È il periodo in cui va il nude look. Elio esce con campagne pubblicitarie dove vengono ritratte donne bellissime, immortalate dall'amico Oliviero Toscani. Esce il bikini, il tanga, e i suoi poster vanno a ruba. Nel 1982 Dupont inventa la lycra e Fiorucci la utilizza per il jeans stretch. La tela di jeans, sino ad allora usata per abiti comodi da lavoro, diventa bella, sexy. I suoi jeans, anche in America, la patria dei jeans, diventano oggetto di culto. Fiorucci è il re del jeans. Bruce Springsteen dice che dopo la sua chitarra sono i jeans Fiorucci l'oggetto cui tiene di più. Nel 1983 esce Flashdance e Fiorucci lancia la moda da palestra. Si vendono body e scaldamuscoli. L'infinita capacità di sintonizzarsi sul presente vede Fiorucci attraversare tre decenni, dalla New Wave alla New Age. Le persone delle quali si è circondato, la sua predisposizione alla caccia delle tendenze prima che i cool hunter esistessero come professione, la curiosità del viaggio come fonte di ispirazione sono gli ingredienti del suo successo. I suoi negozi sembravano palcoscenici dove va in scena un mondo spettacolare, fatto di un cocktail di rimandi all'Italia, all'America, all'India. E Barbara Ulanici, la persona che ha ispirato profondamente Fiorucci per un nuovo concetto di negozio. Poi lei era andata a prima in Brasile perché l'aveva chiamata un'azienda brasiliana. Poi è andata in Miami, poi gli avevo detto: scusa, ma vieni a Milano, perché noi abbiamo bisogno di talenti, abbiamo bisogno di... Poi era talmente, come dire, bella, signorile, non so come dire, solo averla a fianco ti dava un senso di gioia. Barbara fa alcune collezioni per Fiorucci e poi si stabilisce in Florida, dove porta avanti la professione di interior designer. Quando viene a Milano non manca di chiamare l'amico Elio. Con lui ha condiviso l'ebbrezza di quel periodo, di quella intuizione. Su di lei hanno fatto un musical per celebrare quei favolosi anni 60 e 70 di cui è stata protagonista. La Fiorucci, pur avendo avuto una storia più fortunata, viene venduta nel 1990 a una società giapponese. Nel 2003 lo store in Galleria Passarella viene ceduto al gruppo svedese H&M e nello stesso anno Elio lancia un nuovo progetto, Love Therapy, proponendo accessori e abiti che offrano allegria e divertimento. Lui, che ha saputo inserirsi nel flusso della mutazione economica, culturale, sociale degli ultimi 30 anni, elaborando sempre nuove strategie, ritorna alle origini del sentimento, quello che non conosce tempo, l'amore. Tutto è partito da Londra, è vero, ma anche l'America gli ha insegnato molto. Quando pensa al concerto di Simon & Garfunkel a Central Park, sponsorizzato da lui nel 1982, non può che provare un po' di nostalgia. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for a man. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23 qui su Radio 24.